Mentre ascolterete questo programma, quattro elefanti moriranno e l'avorio delle loro zanne finirà al mercato nero e le tasche di grandi organizzazioni criminali saranno più piene. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Wayne era un mio caro amico. Traders in ivory actually want extinction of elephants. The less elephants there are, the more the price rises. Ben ritrovati, buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti anche da parte di Gianmarco Ferronato che è in regia, Antonio Tali e Elisa Pancaldi che sono in redazione. E vi ricordo anche che potete porre domande e commentare i temi di quest'oggi al 349-238-6666, sia SMS che WhatsApp. Potete anche twittare Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, e poi siamo su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, dove trovate anche la diretta Facebook. Allora, oggi vi raccontiamo un mercato criminale che vale 3 miliardi di dollari ogni anno. Oggi vi raccontiamo una multinazionale del crimine che opera sulle piste, sulle savane africane e finisce, per così dire, il suo lavoro sulle strade di Pechino e Hong Kong. Oggi vi raccontiamo la lunga guerra per l'avorio. I can't afford to see elephants dying like this. We are in a war zone. The poacher's prepared to shoot at you, and you have to be prepared to shoot back. We are talking about hundreds of tons of ivory getting into mainland China. Organized crime is never far away. The buyer is secret, the seller is secret, the killer is secret, everything is secret. You cannot trust anyone. E quello che sentite sono estratti da un film recentemente uscito, era il 4 novembre del 2016, l'anno scorso. Il film si chiama The Ivory Game, il gioco dell'avorio. Il produttore esecutivo è stato Leonardo DiCaprio. Due filmmaker, due registi, Keith Davidson e Richard Ladkani, si sono messi sulle tracce, anzi dovrei dire si sono messi a caccia dei cacciatori, cioè dei bracconieri, che in Tanzania, in Kenya, ma anche in altre zone dell'Africa uccidono illegalmente gli elefanti, estraggono le zanne e poi riescono a contrabbandare quel prezioso avorio fino a Hong Kong e fino in Cina. E mentre vi parliamo, è ancora molto vivo il lutto, il cordoglio a Dar es Salaam in Tanzania per la morte una settimana fa di Wayne Lotter, sudafricano 51enne, un attivista impegnato nella lotta proprio al bracconaggio in Tanzania. Era il cofondatore della PAMS Foundation. Che cosa è accaduto? Beh, era mercoledì scorso, era attorno alla mezzanotte, era atterrato a Dar es Salaam, che è forse uno dei principali porti di uscita delle zanne africane, spedite poi in Cina. Lì in Cina l'avorio viene lavorato, diventano soprammobili e suppellettili varie. Insomma, era mercoledì, poco prima di mezzanotte, prende un taxi e lascia l'aeroporto per avviarsi in città. Un'auto di sicari lo blocca, almeno tre uomini, un uomo gli scarica un caricatore di pistola addosso. Il lavoro di Wayne Lotter, della PAMS Foundation, ma anche di tante altre organizzazioni. Noi un paio di anni fa vi raccontammo anche della Elephant League Protection, per esempio, dove c'è anche un italiano molto attivo. Sono tutte organizzazioni che da anni sono in prima linea per la lotta contro il bracconaggio, per tutta una serie di motivi che cercheremo di spiegarvi in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Grazie all'organizzazione, alla PAMS Foundation e al lavoro di speciali unità anti-bracconieri, in carcere sono finiti decine e decine di criminali. C'era Boniface Mathieu Maliango, detto Shetani, cioè il diavolo. Quest'anno è stato condannato a 12 anni di carcere. E poi c'era Yang Feng Lan, 67enne, soprannominata The Ivory Queen, la regina dell'avorio, che era un personaggio piuttosto controverso, che faceva affari in superficie legalmente tra Cina e Tanzania e poi invece, insomma, sotto banco contrabbandava, pensate, 2 tonnellate di zanne d'avorio. Allora, vi ricordo 349-238-6666 per i commenti, le domande su questa lunga guerra dell'avorio, così l'abbiamo chiamata, una guerra silenziosa, una guerra che ha un impatto economico molto forte, ma anche un impatto ecologico che non va sottovalutato. Prima di entrare meglio tra le pieghe di questo tema, a noi, lo sapete, piace un sacco dare i numeri. Il bracconaggio di specie protette è un fenomeno che danneggia l'ambiente di numerose nazioni e si articola attraverso un mercato nero di portata globale. In Africa, nel mirino ci sono specie come l'elefante, di cui l'anno scorso i bracconieri hanno ucciso circa 35.000 esemplari. Il rinoceronte nero, che nei 57 anni dal 1960 si è ritrovato sull'orlo dell'estinzione. Ma anche il leone, ormai scomparso in 7 nazioni africane, e il gorilla di montagna, di cui restano meno di 900 esemplari. Secondo African Wildlife Foundation, queste specie vengono cacciate e uccise di frodo nonostante le convenzioni internazionali che le proteggono, perché diverse parti del loro corpo possono essere impiegate nella medicina tradizionale sia africana che asiatica, o nella realizzazione di monili e oggetti d'arredamento di altissimo valore. Le corna di rinoceronte, nonostante l'assenza di ogni rilevanza scientifica, sono ritenute miracolose contro il cancro e l'impotenza maschile, e circa mezzo chilo può essere venduto al mercato nero al prezzo di $30.000, un prezzo più alto di quello dell'oro, il cui costo si aggira intorno ai $22.000. L'avorio estratto dalle zanne di elefante viene impiegato per realizzare gioielli e figure votive. Il 70% di questo materiale finisce in Cina, dove può essere venduto per circa $2.000 al chilogrammo. Con i ritmi attuali, elefanti, rinoceronti e altre specie africane si saranno estinte nel corso dei prossimi decenni. Ma il fenomeno non riguarda solo il continente africano. I bracconieri colpiscono anche in Birmania, Thailandia, Indonesia, Vietnam, India e dovunque si trovino specie protette adatte alla vendita al mercato nero. In un paese come l'India, ad esempio, nel 2010 si è assistito a un picco nella caccia di frodo all'elefante. Nel 2014, a Londra, 46 nazioni hanno siglato una dichiarazione contro il mercato nero delle specie protette, ma gli analisti di settore ritengono i progressi troppo lenti. Al lato opposto del mercato, sul fronte degli acquirenti dell'estremo oriente, la Cina ha chiuso gli stabilimenti di trattamento dell'avorio nel marzo di quest'anno e si è impegnata a chiudere tutti i rivenditori entro la fine del 2017. Queste misure hanno fatto calare i prezzi vertiginosi registrati negli anni scorsi, ma è ancora presto per misurarne gli effetti più concreti. Mentre allo stato attuale le stime più accreditate fissano a quota $23 miliardi annui il valore del mercato nero derivato dal bracconaggio, un valore che lo situa al quarto posto dopo droga, armi ed esseri umani nella classifica dei mercati illegali globali. Allora, 349-238-6666, c'è un ascoltatore molto attento che dice: questo fatto del traffico di avorio lo aveva già narrato Conrad in Cuore di Tenebre. In effetti lo scrittore descriveva varie stazioni dove veniva smistato l'avorio ed erano coinvolti vari cittadini, insomma, di vari paesi europei. Dalla scheda avete sentito come la Cina abbia svolto e svolgerà presumibilmente un ruolo molto importante. Perché? Innanzitutto perché è mercato di sbocco di questo commercio illegale di avorio, ma poi lo sapete, l'abbiamo già raccontato tante volte da questi microfoni, la presenza cinese in Africa è una presenza importante e gli analisti dicono che probabilmente questo stop al commercio illegale di avorio sia stato fatto da Pechino per potersi meglio presentare con una faccia più rispettabile, più pulita, passatemi il termine, nell'importante mercato africano. E poi un'altra breve riflessione prima di porgere i saluti al primo ospite che tra poco vi presento. L'avete sentito il film di DiCaprio, ma ci sono stati altri documentari proprio sul traffico di avorio, libri, inchieste. È un tema che ha appassionato tanti giornalisti e tanti filmmaker, ma c'era un grande punto di domanda. Noi 2 anni fa ne parlammo, si diceva, l'amministrazione americana in particolare l'aveva detto più volte, Hillary Clinton stessa: attenzione, perché il bracconaggio va a finanziare persino, pensate, il terrorismo. Qualche giorno fa è uscito un ottimo pezzo sul New York Times dal corrispondente da Nairobi e Tristan McConnell, che sottolineava come in effetti non vi siano evidenze di un finanziamento diretto tra gruppi di bracconieri, avorio in particolare, e organizzazioni come per esempio Al-Shabaab o Boko Haram, mentre sì, esistono evidenze su gruppi un po' più locali come il Lord Resistance Army o i Janjaweed per esempio in Sudan. Detto ciò, do il mio benvenuto, il mio buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo è Lontano, a Marco Galaverni, che è responsabile specie Habitat WWF Italia. Galaverni, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, prima abbiamo cercato di dare un po' di numeri e ricapitolare questo commercio estremamente lucroso. Da quando esiste l'attenzione dell'uomo per l'avorio e per questo commercio che oramai, insomma, è sempre più illegale, evidentemente? Beh, il commercio di fauna selvatica, incluso l'avorio, credo che sia antico quanto l'uomo. Quello che è molto più recente invece è la consapevolezza dell'impatto negativo che questo tipo di commercio, anche se legale, può avere sulla conservazione delle specie e indirettamente degli habitat. Questo ha portato nel 1973 a firmare quella che è cosiddetta Convenzione di Washington, ovvero la Convenzione internazionale sul commercio di specie di flora e fauna protette che possono essere minacciate proprio dal commercio dei interi animali o anche solo loro componenti, come ad esempio l'avorio. Sì. Allora, ci sono delle leggi che aiutano, ci sono dei framework, diciamo, internazionali, degli apparati giudiziari internazionali che evidentemente danno una mano, no, a chi combatte questo fenomeno. Ci sono altri, come dire, impedimenti invece che non aiutano organizzazioni come la PANS Foundation o come l'Interpol, per parlare ad organismi di organismi istituzionali. Ci sono dei limiti, ci sono dei vincoli, ci sono delle necessità anche legislative che bisognerebbe mettere in atto per contrastare meglio questo fenomeno, secondo lei, Graverny? Sicuramente la Convenzione di Washington è lo strumento più potente e più diffuso che abbiamo per contrastare il traffico di avorio e di altri prodotti animali. Sicuramente il fatto che al momento attuale non tutti i paesi abbiano aderito alla CITES, ovvero la Convenzione di Washington, sì, e con la massima ristrettezza possibile, perché ricordiamo se in tutto il mondo le popolazioni di animali sono inserite nella cosiddetta appendice 1 che ne vieta totalmente il commercio, in le popolazioni che vivono in quattro paesi africani, ovvero la Namibia, il Sudafrica, il Botswana e lo Zimbabwe, possono commercializzare legalmente una certa quota di prodotti d'avorio. E questa discrepanza dei livelli di tutela fa sì che sia più difficile tracciare anche quei traffici illegali che non necessariamente partono da questi paesi, ma che alimentano comunque il mantenimento di una domanda elevata, e quindi soprattutto in paesi più deboli, meno sviluppati per quanto riguarda la lotta al bracconaggio, possono avere ripercussioni terribili. In Tanzania, citavamo questo paese, esatto, perché lì Wayne Lotter stava appunto lottando contro questo fenomeno, il problema era stato quasi risolto, nel senso che anche massicce interventi di polizia, è stato creato un'unità apposita di polizia che lottava appunto contro i bracconieri, sono stati fatti numerosi arresti. Quindi Tanzania problema quasi risolto, i parchi sono un po' più sicuri per gli elefanti quantomeno, il mercato però si sta spostando, si parla adesso di Mozambico, si parla di Congo e adesso c'è il bando futuro della Cina, entro il 2017 si dovrebbero chiudere le porte cinesi a questo mercato. Non c'è il rischio però che questo, come dire, questa fluidità, no, tra domanda e offerta continui ad alimentare un mercato nero, secondo lei? Ma il rischio sicuramente c'è. Quello che abbiamo osservato però negli ultimi anni, proprio nel rapporto tra domanda e offerta, è che la domanda sembra essere il fattore determinante, perché appunto fin tanto che c'è la domanda il bracconaggio si sposterà nelle zone più difficilmente controllabili, quindi di anno in anno, da uno stato all'altro. Ricordiamo che in Tanzania stessa fino al 2013, in soli 7 anni, c'è stato un declino del 50% delle popolazioni di elefante, primariamente a causa del bracconaggio. Proprio per quello sì, Wayne Lotter era così attivo in loco, per far fare un salto di qualità nella lotta al bracconaggio, utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, che purtroppo le organizzazioni criminali sanno sfruttare molto bene, a partire da internet, a mezzi tecnologici e così via. Sì. Quindi agire sulla domanda, come la Cina sta facendo, può avere davvero quell'effetto benefico di cui c'è assolutamente bisogno per evitare che le popolazioni arrivino al tracollo. Uno dei problemi del traffico, del contrabbando di specie protette è che molto spesso parte o viene effettuato come luoghi di transito in paesi con altissimi tassi di corruzione. Stavo leggendo proprio questa mattina il racconto giornalistico di un processo in Kenya che l'anno scorso ha portato in carcere Faisal Mohamed Ali. Insomma, questo grosso contrabbandiere si è beccato 20 anni di carcere, però continuava a fare ricorsi in appello, aveva messo in campo avvocati piuttosto bravi, piuttosto strutturati, Nel frattempo, insomma, durante il procedimento sono sparite delle prove, sono stati sostituiti dei giudici, attivisti e osservatori del processo erano stati minacciati di morte. Insomma, una delle grandi vulnerabilità è che il bacino da cui si attinge sono i paesi africani, molto spesso, ma non solo, abbiamo visto anche l'Asia, e lì insomma gli apparati statali ogni tanto hanno seri problemi di corruzione e di fragilità. Questo per voi evidentemente è un problema. Assolutamente sì, e lo sanno bene anche le organizzazioni criminali che investono in avvocati di alto livello proprio per riuscire a muoversi all'interno delle pieghe, delle debolezze dei sistemi di questi paesi e quindi trovare il modo, anche nel caso in cui vengano portati al processo, di avere pene lievi o riuscire ad invalidare appunto interi processi. E in questo modo si mantiene alto appunto il flusso di avorio illegale e mantiene anche alta la domanda, e appunto salvo esempi come quello fortunato della Cina, in cui appunto negli ultimi mesi abbiamo assistito fortunatamente ad un calo notevole dei prezzi sul mercato sia legale che illegale, verosimilmente dovuti proprio al calo della domanda nel momento in cui il paese ha deciso di investire seriamente sulla lotta e sulla chiusura del mercato interno e sulla lotta al commercio. Siamo con Marco Galaverni, responsabile specie Habitat di WWF Italia. Stiamo tentando di raccontare, di tracciare un complesso network, una complessa situazione, quella che fa sì che, lo dicevo, in quest'ora di trasmissione verranno uccisi 4 elefanti, le zanne, l'avorio verranno trafugati, contrabbandati, e ogni volta che passeranno di mano in mano il valore del singolo chilo di avorio decuplicherà, si aggiungeranno zeri, insomma ha tutte le caratteristiche delle regole, diciamo, del mercato nero perfetto. Quali sono però, Galaverni, le caratteristiche di questi network criminali? Abbiamo capito che operano anche in diversi continenti. Che idea vi siete fatti? Innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo dalla vecchia superata idea del fatto che il bracconiere sia una persone povere dei villaggi locali che appunto bracconano per garantirsi la sopravvivenza. Stiamo parlando di vere e proprie organizzazioni criminali internazionali che hanno sia squadre di approvvigionamento, quindi bracconieri veri e propri che procedono all'uccisione degli esemplari, così come trafficanti internazionali che trasportano la merce da un continente all'altro, in particolare dall'Africa al sud-est asiatico alla Cina, ma anche dalla stessa Asia, e con modalità che si adattano continuamente alle nuove tattiche dei controlli, per cui se in passato le quantità trasportate erano grossi lotti e con poche spedizioni, adesso invece è stato osservato come il traffico si stia spandendo in tanti piccoli rivoli di quantità più limitate proprio per sfuggire ai controlli, fino ad arrivare ovviamente a quello che è il mercato finale, di cui appunto la Cina è stata per lungo tempo assolutamente il maggiore destinatario, in cui appunto il nuovo benessere di una fascia sempre crescente di popolazione di fatto ha reso possibile potenzialmente un mercato molto più ampio. Allora, Marco Galaverni, stia con noi perché abbiamo raggiunto pochissimi minuti fa a Dar es Salaam Malcolm Ryan, lavora nella Hutt Hotel Association of Tanzania, è nel comitato anche di conservazione ed era un amico di Wayne Lotter, l'attivista che è stato ucciso appunto mercoledì scorso. A Malcolm Ryan abbiamo chiesto che idea si siano fatti dell'uccisione di Lotter, sentite. Ma allora, per il momento c'è una investigazione da parte della polizia, quindi ancora i dettagli non sono noti, diciamo. Un dato di fatto è che Wayne sapeva che insomma era in pericolo, aveva già ricevuto minacce, e quindi l'ipotesi che viene più automatica è quella più di un regolamento di conti, però stiamo aspettando anche i dati ufficiali dalla polizia. La voce che avete sentito era quella di Malcolm Ryan. Lui lavora all'Hotel Association of Tanzania, lavora in campo turistico ma anche nel comitato di conservazione dell'ambiente lì in Tanzania, ed era un amico di Wayne Lotter, lo conosceva bene. Wayne Lotter è soltanto una delle ultime vittime di chi si oppone ai bracconieri, a coloro che tentano di contrabbandare parti o intere animali, specie protette, che valgono, l'abbiamo detto, miliardi e miliardi di dollari ogni anno. Sarebbe, secondo le stime dell'ufficio anticrimine dell'ONU, il quarto business al mondo dopo droga, armi e traffico di esseri umani. Pensate un po'. Allora, dalle parole di Malcolm Ryan si evince che evidentemente l'attività di Wayne Lotter era particolarmente pericolosa, e evidentemente Wayne aveva pestato i piedi di diverse persone. A Malcolm abbiamo chiesto se aveva mai menzionato qualcuno, se aveva fatto nomi, se c'era qualcuno in particolare che egli stesso temeva particolarmente. Sentite. Diciamo che ha pestato i piedi a molte persone. Wayne era un mio caro amico, e proprio per evitare anche di compromettere le indagini, direi che è meglio lasciare questa fase alla polizia. Un altro dato importante, anche sentendo il tratteggio che ha fatto Marco Galaverni di WWF Italia della ramificazione di questi network transnazionali, sono organizzazioni criminali che hanno basi e membri dell'organizzazione in territorio africano ma anche in territorio asiatico, l'Estremo Oriente, Hong Kong, Cina, Pechino. Che idea si è fatto Malcolm Ryan sulla ramificazione del terreno, cioè su quanto siano presenti membri di queste organizzazioni proprio in Tanzania? Sentite. L'arresto più, diciamo, famoso ottenuto da PAMS Foundation è proprio quello dell'Ivory Queen, Juan Feng Yang, che è attualmente ancora in carcere, il processo si sta svolgendo, quindi certo ci sono legami internazionali. Sai, in Africa la Cina bene o male si sta espandendo in Africa, quindi ovviamente ci sono anche gang criminali cinesi sul territorio. Ancora Malcolm Ryan della Hotel Association of Tanzania, comitato di conservazione dell'ambiente, amico di Wayne Lotter, il cofondatore della PAMS Foundation, ucciso pochi giorni fa da Dar es Salaam per la sua attività contro i bracconieri, contro questo business criminale. Quanto vale questo mercato? Quanti elefanti sono stati persi in Tanzania? Sentite. Abbiamo perso 60.000 elefanti. E ogni elefante una media di 10 kg a zanna, adesso ormai un po' meno perché le grosse elefanti non ci sono più, però fino a due anni fa il valore sul mercato era di $2,000 al chilo, quindi parliamo di miliardi di dollari. Allora, Marco Galaverni, abbiamo ascoltato insieme una prima parte della testimonianza di Malcolm Ryan. Lei, Galaverni, responsabile specie Habitat WWF Italia, e quindi è la persona più indicata a spiegarci, diciamo, gli effetti collaterali del bracconaggio. Il fatto che una specie come quella dell'elefante vada a estinguersi, perché dovrebbe preoccuparci? Sarebbe davvero una sciagura per tutti gli ecosistemi in cui l'elefante è presente, perché l'elefante è una vera e propria specie ombrello. Innanzitutto, conservando l'elefante conserviamo anche i grandi, gli estesi habitat in cui vive, ma soprattutto il ruolo ecologico dell'elefante è fondamentale, in quanto mangiando quantità ingenti di vegetali opera come diffusore dei semi, e quindi di fatto quello che l'elefante mangia, spostandosi in continuazione nell'ambiente, e funge veramente da agricoltore naturale della savana, soprattutto, e soprattutto apre ancora, si fa larga nella vegetazione e consente alle altre specie e animali più piccoli e meno potenti di avere accesso ad esempio all'acqua per abbeverarsi o così via. Davvero l'elefante è un elemento fondamentale per gli ecosistemi, oltre che una specie assolutamente affascinante. Ricordiamo che l'elefante è una delle pochissime specie, oltre all'uomo, in cui gli individui sopravvivono anche oltre l'età dell'ultima riproduzione, perché la trasmissione culturale operata soprattutto dalle matriarche nei confronti delle figlie e dei nipoti è fondamentale per sapersi muovere in queste zone molto ampie, trovare le pozze per abbeverarsi, scampare i pericoli e trovare sempre pascoli verdi. Per cui davvero è una specie affascinante e fondamentale tassello degli ecosistemi. Il valore dell'elefante, non soltanto del lavoro o delle sue zanne al centro di questa lunga prima pagina in Nessun Luogo Lontano, adesso altri valori, la borsa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. Quest'oggi vi raccontiamo la lunga e silenziosa guerra per l'avorio che miete vittime. Le vittime non sono soltanto questi animali che popolano vaste zone dell'Africa, ma anche del sud-est asiatico, ma sono anche quelle persone, i ranger per esempio, gli attivisti, Wayne Lotter, fondatore e cofondatore della Pans Foundation, che lottano appunto contro un business criminale che vale miliardi di dollari ogni anno. Per capire meglio di che si tratta, per fotografare meglio il fenomeno, è con noi Marco Galaverni, responsabile specie e habitat di WWF Italia. E con lei, Galaverni, stavamo un po', come dire, sottolineando l'importanza di questo animale per l'intero habitat da lui popolato. Però andiamo a ripescare la voce di Malcolm Ryan a Dar es Salaam, perché lui spiega anche un altro effetto collaterale del bracconaggio, perché il fatto che la popolazione di elefanti vada diminuendo vuol dire che anche i parchi della Tanzania perdono di valore in qualche modo, e quindi si può avere anche un impatto sul turismo. Sentite. Assolutamente, assolutamente, e anche questo è uno dei motivi per cui anche la Hotel Association of Tanzania si è, diciamo, ha supportato il lavoro di PAMS e delle organizzazioni che combattono il bracconaggio. Il Selous particolarmente ha risentito molto anche dal punto di vista turistico, perché ovviamente negli anni passati era diventato famoso per le stragi di elefanti. Grazie al lavoro di Wayne e PAMS Foundation il bracconaggio al Selous è finito, è stato quasi completamente eliminato, e in tutto il paese, in Tanzania negli ultimi 3 anni PAMS ha fatto un lavoro eccezionale, al punto che i bracconieri si sono spostati in altri paesi, dal Mozambico al Congo. In Tanzania il bracconaggio non è più diciamo un problema così grave come lo era 8 anni fa. Malcolm Ryan della Hotel Association of Tanzania. Però torno da Marco Galaverni di WWF Italia per cercare di capire quali sono gli altri target dei bracconieri. Se è vero, come è vero, che il principale mercato di sbocco, la Cina, si sta chiudendo, che la repressione delle forze di polizia e degli attivisti sul terreno africano in qualche modo sta dando i suoi frutti, evidentemente è un mercato così lucroso che le organizzazioni criminali già sono attive su altre specie, su altri animali? Assolutamente sì, purtroppo sembra che le stesse organizzazioni che si occupano appunto di bracconaggio e traffico illegale di avorio siano poi aziende multiservizi, consentitemi la metafora, di fatto occupandosi anche di bracconaggio di altre specie per trafficare con altri materiali. Prima fra tutte, appunto, come abbiamo sentito nella scheda iniziale, il corno di rinoceronte, che sul mercato nero vale oltre 60.000 dollari al chilo, più di oro e platino, quindi un singolo esemplare di rinoceronte rivenduto appunto, soprattutto anche in questo caso, sul mercato cinese e sud-est asiatico per scopi di medicina tradizionale, se così la vogliamo chiamare, di fatto ha un valore enorme e davvero mette a rischio la conservazione anche di questo bellissimo animale, ricordando che il corno altro non è che fatto di cheratina, la stessa proteina che costituisce i nostri capelli, i nostri peli. Sì, però evidentemente viene rivestito, come dire, di significati che noi probabilmente sfuggono, evidentemente acquista un valore. E il fatto che Galaverni sottolineava che chi traffica un certo bene poi può molto naturalmente, molto agilmente andare a sostituire quel bene, come dire, è una cosa che la cronaca ci consegna continuamente. Se un'organizzazione è capace di violare le frontiere, è capace di corrompere i funzionari delle dogane, è capace di far partire un cargo da Dar es Salaam e farlo arrivare nel porto di Hong Kong, ebbene, insomma, pensate, può togliere evidentemente le zanne di avorio e metterci un po' quello che gli pare. Grazie mille a Marco Galaverni, responsabile specie Habitat WWF Italia, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Prima di proseguire in questa analisi e farvi sentire altre voci che raccontano meglio e dettagliano la guerra per lavori, una guerra forse in via di risoluzione, lo speriamo evidentemente noi tutti, vi faccio sentire l'ultimo appello di Malcolm Raya, che era, è stato grande amico di Wayne Lotter, l'attivista ucciso la settimana scorsa. Sentite. Credo che adesso sia importante innanzitutto ringraziare Wayne per il suo grande lavoro, il Pan Foundation, e soprattutto la cosa più importante è che non venga passato nel dimenticatoio, nel senso che il lavoro della Unity, il Pan Foundation lavorava con, insieme al governo, con la unità che si chiama National and Transnational Serious Crime Unit, ed è fondamentale che il loro lavoro venga portato avanti, altrimenti i mandanti di questo omicidio avrebbero vinto. Allora, lo dicevamo, inizio trasmissione, mentre la Tanzania in qualche modo va a risolvere il problema del bracconaggio, il problema stesso si sposta in paesi come il Mozambico o come il Congo, ed è lì che io vi porto. Il Parco Nazionale del Virunga, c'è la vita della comunità. C'è da questa entità là où vous pouvez encore trouver les gorilles des montagnes. C'est ça ma vie. Ils ont l'amour. Allora, questa è una puntata, come dire, ricca di allusioni e riferimenti cinematografici, perché la conservazione della natura e delle specie animali hanno intrigato tanti registi, tanti filmmaker, documentaristi. Su tutti, Leonardo DiCaprio, che è produttore, anche produttore esecutivo anche di questo documentario che si chiama Virunga, è uscito un paio di anni fa e racconta le vicende del parco del Virunga. Siamo al confine con Uganda e Ruanda, è un parco ricchissimo, la specie forse più celebrata è il gorilla di montagna, ma vi sono tante altre specie che vanno tutelate. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare con alcuni dei ranger che pattugliano quotidianamente ogni notte H24, come si dice in gergo militare, quei vasti territori del parco del Virunga, e in effetti il lavoro di prima linea è particolarmente rischioso, particolarmente pericoloso. Si usano le tecnologie, ma alla fine quello che conta è l'olfatto, è consumare gli scarponi, gli anfibi e tenere il Kalashnikov col colpo in canna sempre pronto, perché il nemico è sempre in agguato. Chi per anni ha, come dire, appunto consumato gli scarponi, gli anfibi, è Jean-Claude Mamorindo, ex ufficiale dei Ranger e coordinatore delle operazioni sul terreno in un altro parco. Andiamo a nord del Congo, lasciamo il nord-est, andiamo verso nord, il parco Garamba, e l'abbiamo raggiunto qualche tempo fa. Lì abbiamo capito meglio come funziona l'attività di pattuglia quotidiana. Sentite. Le attività che noi abbiamo dal parco sono precisamente le patrouille. Jean-Claude Mamorindo racconta che le missioni del parco, le attività sono fondamentalmente pattuglie. Sul terreno inviano ogni giorno 5 o 6 pattuglie che hanno la missione di monitorare il parco per trovare ogni attività illegale. Partout dans le parc à la recherche de toutes les activités illégales qui vont rapporter dans le parc. Le minacce che abbiamo qui, racconta ancora il ranger, vengono soprattutto dal Sud Sudan o dai villaggi che sorgono attorno al parco. Vi sono bracconieri sudsudanesi, ma vi sono anche bracconieri che fanno parte di ciò che resta dell'esercito per la liberazione del Sud Sudan, ma a volte anche membri dell'LRA, il Lord Resistance Army. E aussi quelquefois de la LRA qui fait des menaces aussi dans les domaines comme dans les parcs. I gruppi armati che vengono qui a compiere le loro attività di bracconaggio cacciano soprattutto gli elefanti per l'avorio, racconta Mamorindo. Arrivano qui, ammazzano gli elefanti e poi recuperano le zanne. Questi criminali che vengono qui a caccia sanno perfettamente che incontreranno noi, i ranger, che siamo armati, siamo pronti a difendere il parco, e quindi anch'essi sono evidentemente molto ben armati. E in passato abbiamo avuto parecchi scontri mortali. Lo scorso 17 giugno abbiamo perduto un compagno durante una pattuglia che abbiamo effettuato mista con l'esercito congolese che ci appoggia nelle nostre operazioni. e abbiamo perso un nostro compagno e due soldati tra le fila dei congolesi. È stato uno shock per noi, però lo sappiamo, è il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti continuamente. E poi Jean-Claude si lascia andare al racconto di quella giornata, dice: è stato un vero e proprio combattimento, erano in tanti, erano superiori rispetto a noi come numero, avevano la forza in più rispetto alla nostra squadra. Non c'erano prove per capire chi fossero, chi era questo gruppo che ha attaccato, ma riteniamo provenissero dal Sud Sudan. E la cronaca di questa continua lotta tra chi saccheggia le risorse naturali dei parchi e uccide e chi sta in prima linea, come questo ranger che avete sentito e che difende su tutte, per esempio la specie degli elefanti, beh, purtroppo è in continuo aggiornamento la lista dei caduti. Solo pochi giorni fa, era il 14 agosto, poco prima di Ferragosto, tre ranger del parco del Virunga stavano facendo una pattuglia di routine quando sono caduti in un'imboscata. Un gruppo di Mai Mai, una milizia locale che trova riparo proprio nel Virunga e trova sostentamento grazie alle risorse naturali del Virunga, ha incrociato i loro passi. Sale così a 8 il numero di ranger uccisi solo quest'anno e solo nel parco del Virunga. Insomma, è una guerra che si combatte in prima linea, ma si combatte non soltanto in Africa, anche in Cina. In ascesa i casi di bracconaggio, ve lo dicevo, sia in Congo che in Mozambico, ma anche nel Kruger National Park in Sudafrica. Adesso andiamo su altre strade, quelle italiane, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Allora, prima di proseguire e andare all'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, che va nell'estremo oriente, ma per tutt'altro motivo, tutt'altro mistero, ieri vi abbiamo anticipato un po' quelle che devono essere le intenzioni di Donald Trump, e beh, insomma, lo avete sentito, ha annunciato un intervento militare, un nuovo invio di truppe statunitensi in Afghanistan. Nearly 16 years after September 11th attacks, after the extraordinary sacrifice of blood and treasure, e mentre insomma la roboante propaganda di Trump, sempre molto muscolare, diceva stavolta si va a vincere, beh, è notizia di 40 minuti fa esatti. Il segretario di Stato Rex Tillerson rilancia l'offerta di negoziati di pace ai talebani. Le agenzie battono il virgolettato che recita: siamo pronti a sostenere colloqui di pace tra il governo afghano e i talebani senza precondizioni, ha dichiarato Tillerson, invitando la comunità internazionale, in particolare i vicini dell'Afghanistan, a fare altrettanto. Insomma, come spesso accade da parte dell'amministrazione americana, messaggi evidentemente ogni tanto leggermente discordanti. Adesso però andiamo in Corea del Nord. Andiamo in Corea del Nord intanto con un'altra breaking news, perché il Tesoro statunitense annuncia forti sanzioni contro 10 società cinesi e russe e 6 individui accusati di aiutare il programma nucleare nordcoreano. Così, tanto per iniziare la pagina dedicata alla Nord Corea. E poi ci andiamo grazie anche a Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio. Giulia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo. Ciao, ciao a voi. Allora, poche ore fa, Giulia, la Reuters, agenzia di stampa internazionale, ha fatto un lancio che ha catturato la nostra attenzione. Ve lo riassumo per quello che è possibile. Negli scorsi 6 mesi, 2 cargo sarebbero partiti dalla Corea del Nord in direzione Siria e sarebbero stati intercettati. Dovevano andare all'agenzia siriana responsabile del programma per le armi chimiche. Queste informazioni sono contenute in un rapporto di esperti delle Nazioni Unite indipendenti che è stato consegnato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Reuters ne ha avuto un'anticipazione proprio ieri e ha provveduto a rilasciarla. In realtà non si è capito ancora chi ha intercettato questi 2 cargo né quando, cioè nella relazione non vengono dati dettagli. Il mittente di questo invio sarebbe COMID, che è la Korea Mining Development Trading Corporation, che è una compagnia apparentemente regolare. Peccato che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2009 l'ha messa nella blacklist, descrivendola fondamentalmente come quello che fa contrabbando di armi per Pyongyang. Insomma, ci sono tutte le componenti di un mistero, di quelli golosi, insomma, per chi si occupa di Estremo Oriente. Giulia Pompili, quanto stupisce questa indiscrezione? C'è un filo rosso che legherebbe Pyongyang a Damasco? Ma in realtà è una cosa che sapevamo già da tempo. Il panel di esperti che si occupa di controllare come funzionano le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord, già nel febbraio scorso, quindi pochi mesi fa, aveva pubblicato oltre 300 pagine di report nel quale si citava già questa sì. specie di connection di cargo che passavano dalla Corea del Nord verso la Siria. E secondo me non è ancora ovviamente ufficiale, però da quello che mi pare di capire dal lancio di Reuters, che non dà molti dettagli, sì. le 37 pagine di report nuove, quindi messe all'attenzione del Consiglio di Sicurezza qualche giorno fa, sempre dallo stesso panel di esperti che si occupa delle sanzioni, evidentemente è un dettaglio in più su queste due navi. Perché sarebbero due cargo sì. Esattamente. Ora, addirittura nel report di febbraio rispetto al commercio, cioè al movimento che c'era tra Siria e Corea del Nord, si parlava addirittura di due navi, due cargo nordcoreane che erano state assicurate da una compagnia che faceva capo a tale David Skinner, che è un uomo che è uscito fuori nelle cronache anche qualche anno fa perché assicurava dei cargo che passavano tra Iran e Siria, sempre con materiali illeciti. Sì. Dunque c'è tutta una grande connessione di cui noi già sappiamo qualcosa, evidentemente, e che gli esperti che studiano i movimenti che partono dalla Corea del Nord ovviamente conoscono. Ora la grande domanda è perché non vengono fermati questi cargo, soprattutto se si parla di gas e si parla di Siria. Sì, sì. Il fatto che poi questo rapporto è stato trasmesso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU lascia presagire che poi vi potrebbero essere ulteriori sanzioni, o insomma l'ONU potrebbe compiere delle mosse sia riguardo alla Siria che riguardo alla Corea del Nord. Sì, succede spesso che certe cose cadano un po', soprattutto per l'opinione pubblica, un po' nel dimenticatoio, anche perché a noi serve seguire e tracciare i movimenti. Noi sappiamo che dal 2006 a oggi evidentemente la Corea del Nord ha avuto una rete, un mercato nero sommerso. Non so se vi ricordate, nel 2013 fu fermato a Panama un cargo che dalla Corea del Nord stava andando verso Cuba, carico di armi sovietiche, si diceva molto vecchie, che però faceva parte di quel tipo di mercato nero che negli anni ha chiaramente aumentato la possibilità, l'avanzamento tecnologico nordcoreano. Sì. Spesso la comunità internazionale segue questi movimenti per capire poi dove si vuole arrivare, spesso ce ne dimentichiamo magari. Sì, cioè tu dici a volte insomma si lascia il laccio un po' lungo per capire meglio, per descrivere meglio. Sì, secondo me sì, a questo punto poi come dicevi all'inizio sta cominciando a profilarsi una specie di teoria di politica estera dell'amministrazione Trump e le sanzioni che è appena uscita la notizia del Tesoro americano che ha sanzionato tre russi, due aziende di Singapore sì. e tre aziende cinesi, mi sembra che queste secondary sanctions si chiamano, cioè aziende che non sono nordcoreane ma che aiutano il programma nucleare missilistico nordcoreano, comunque a finanziare il regime nordcoreano, mi sembra che si stiano concentrando anche su questi sui paesi che poi aiutano attraverso il mercato nero il regime a sopravvivere. Certo. Senti Giulio, l'ultima domanda riguarda invece proprio la dinamica, no, di questo contrabbando. Insomma, dicevi la grande domanda, com'è che hanno fermato questi due cargo? Come funziona? Com'è possibile che, è vero che controllare l'intero mare è difficile, lo sappiamo molto bene, però è evidente che c'è un'attenzione particolare da parte delle autorità, no, su alcuni paesi, e ogni tanto risulta difficile comprendere come possono due cargo pieni di armi o di materiale di chimico sospetto lasciare un paese e fare decine di migliaia di chilometri navigando per 3-4 mari diversi. Sì, è chiaro che quando stai trasportando delle armi ovviamente non tieni il GPS acceso. Sì. Il famoso transponder viene spento. Questo. Nel 2013 a Panama sparì questo cargo, sì, quello sequestrato, che tra l'altro era ricoperto di era una specie di container di zucchero, cioè loro ufficialmente stavano trasportando zucchero. Sì. A Panama ha spento qualsiasi tipo di riconoscimento satellitare. E poi le autorità sono riusciti a riprenderlo, non si sa come, anche questo fa parte dei grandi misteri dell'intelligence e dei servizi segreti, no? Comunque vengono seguiti e vengono controllati, però per esempio il cargo cubano sempre era partito a 200 km da un porto russo, a 200 km dal confine nordcoreano, dunque ci sono dei porti che ovviamente a fronte di un pagamento economico fanno sparire le tracce di alcuni cargo. C'è un incredibile movimento di reflagging da parte della Corea del Nord, cioè mensilmente loro spostano la carta d'identità delle navi cargo da un paese all'altro, ce ne sono non mi ricordo quante nordcoreane che però hanno battono bandiera mongola, per esempio. Sì. Sì, che già questo dovrebbe far sospettare, insomma. No, però ecco, questa pratica è molto diffusa tra chi fa contrabbando di vario tipo. Ci sono alcuni paesi in cui battere bandiera di quel paese non ti sottopone agli stessi controlli esatto, che avresti battendo bandiera banalmente italiana, no? Anche tutto quello che è l'apparato assicurativo del cargo ha delle maglie molto molto più lasse, quindi è molto più facile evidentemente per chi fa questi traffici adoperarsi in quel modo. Vabbè, insomma, rimangono, Giulia Pompini, un sacco di punti di domanda. Vedremo nel momento in cui, come dire, queste 37 pagine verranno svelate interamente, se sarà consolidato, se sarà conclamato questo filo rosso che lega Pyongyang a Damasco, e se sì, vedremo anche quali saranno le conseguenze a livello internazionale. Grazie mille a Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, esperta di Estremo Oriente. Buona giornata e buon lavoro, Giulia. Grazie a voi, buon pomeriggio. Al 349-238-6666 c'è un ascoltatore che commenta, Max, e dice: beh, a proposito di gas e Siria, ma il famoso attacco di qualche mese fa è cascato nel dimenticatoio. Di solito capita così quando i colpevoli non sono poi quelli sbandierati all'inizio. Così uno degli ascoltatori mi invito, siamo quasi in chiusura, a porre gli ultimi commenti, e anche se avete delle tematiche che vi risultano particolarmente interessanti, abbiamo le ultime 6, 7, 8 puntate di Nessun Luogo Lontano, insomma vi verremo incontro. Adesso è il momento dei titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali, Elisa Pancaldi in redazione anche quest'oggi, con me Gianmarco Ferronato in regia, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è questa sera ore 20 per la replica, domattina ore 6 per la replica, quella per i mattinieri, e poi domani ore 16 in diretta, Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.